Chi è avanti? Avanti, chi è? Ehi, beh, col beat cosa credi di fare? Avanti con la voce, non col beat. Ehi, all'aleare, mi. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, c'è qualcuno qua? Attenzione, canale 10. Tatalino, si ascolti qua, coppo! E io già ascolto già. Ma sei sempre all'ascolto tu, papà. Stamattina non ci sei entrato, no? Ma l'hai tu. Sì, non c'erano. Le ho detto io a Giulio che eri con le ucraine in pullman. Ma chi tu pullusa B? Tutto quel casino che c'era qui sulla 131, me l'ho immaginato io che eri tu con le ucraine. Ah, per quello è... Per quello c'era casino. Ambulanze, hanno me tornando. Rico, rico, rico, rico! Franco, oh Franco! Dito Natalino, ascolti questa piccola modulazione della città di Sassari, capo. Non ti ascolta Natalino, non ti ascolta. Attento Franco, Franco, se ascolti qua. Ha detto Natalino, ascolti questa piccola modulazione della città di Sassari, prego. Già ti ascolto, ti ascolto. E tu mi ascolti tutto leccato, leccato, leccato, capagaba. Vedi positivo, frate, ti ascolto bene qua, capagaba. Con tutto il lecca, lecca. Attento Franco, Franco, se ascolti l'isola di Badimanna, capo. A di manna, capa capa, fratello, cambio, Catta anche a Badimanna, arrivo, bubu. Io credo che arrivavo alla Landinga. Andiamo bene, andiamo, in occhi, capa. Natalino, si ascolti qua, l'isola di Badegunno. Attento, Franco, Franco. Non lo vedi che la 50 ti vuole frustare, cava! Qua non si sente niente, frate, non si sente niente qua da parte mia. Non si intendi? Non si sente, non si sente. Non si sente. Cambio. Cambio. Il mio com'è l'ecco, fra? Già va bene, già va bene, già va bene, già va bene. Il tuo tutta la parola al rispetto. Questo capa capa fratello. Capa fratello. Capa fratello. Capa capa e capa capa. No, già va bene quell'eco, già va bene, ti ascolto bene qua. Non ci sono problemi, capito, cambio. Cambio. C'è anche Luca Lucariello. Badimanna. Ha detto Lucariello di Badimanna, senti questa piccola modulazione dalla città di Sassari che chiama Bricu, Bricu, Bricu, Bricu. Dammi un controllo un attimo lì, come sto arrivando a quelle coordinate, cambio. Cambio. Cambio. Qua la Landriga arrivi in fondo schiena, cava cava. Quindi va bene, dai, cambio. Cambio. Ma sei senza bippi? Perché vuoi il bippi? Guarda il bippi, capo. Adesso sì che sei caldo, capo. Beh, questo è il bipi bipi. Bipi bipi. Bipi. Bipi bipi. Bipi bipi. E io ce l'ho il bipi bipi. Questo è il bipi bipi. Questo è il bipi bipi. Questo è il bipi bipi. Questo è il bipi bipi. A dito, Luca, riascolti. Questa piccola motivazione della città di Sassari che chiama Ricco. Adesso posso andare anche nel canale 45. Ah, frate, sì, anche io me l'ho tolto, capagava. Ma non l'hai tolto tu. Infatti, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E adesso non l'ho tolto, dai. Così va bene? Yes, sir. Ah, è troppo casino, fa. Non va bene quest'ecco, troppo... A me non mi piace. Vabbè, un ecco così non è come quello che piace a me, quello con l'elicottero, come quello di Luca. Ma io lo volevo mettere con l'elicottero, ma qua non ci sta l'elicottero dentro, quindi mi rubo. E boh, non lo so come ha fatto Luca a farci entrare l'elicottero. L'elicottero non ci sta. Ascolti, stavo dicendo, ma cosa stai facendo? Io? Nulla, sto modulando con te e basta. Perché dovevo scendere un attimo alla Decathlon, se ci venivi. Vengo sì, se... adesso sono senza pantaloni, però mi devo mettere prima i pantaloni e le calze a rete. Io no, io mi ho messo il perizoma direttamente, non c'è problema, capito? No, quello già ce l'ho il perizoma, mi faccio prestare gli stivali da mia moglie e le calze a rete mi metto. Allora ci vogliono. Come va questo Tanner più 3? Si andrà bene. Va bene, sì. Yes, sir. Vabbè, no, lo stavo provando a vedere se andava bene, dai. Eia. Apagava, attento Luca, cambio. Vabbè, allora preparati che passo, dai. Così pigliamo quella colla a caldo per fare quella operazione là. Spero io la colla a caldo. La pistola ce l'hai? E allora anche le cartucce. E allora non mi compareggio. Le cartucce ne ho due, non so se ti bastano. Per fare qualcosa della guarnizione, dammi. Qualche ora fa e ancora molto. Dai, già te la do io, non è comprare. Adesso te la porto giù, dai. E ti porto anche una cartuccia, una è già inserita e ne metti un'altra, e ti basta, eh? Tanto ne devi usare poco e niente. No, Miru, vai giù. Tutti qua. E bu. Ti ringrazio. E ti tira la buccia d'orra. Finalmente arriva. Che bella. Andave, dai. Ok. Dai, sto scendendo, fatti trovare giù. Sì, adesso mi metto i cosi, le calze a rete e sto arrivando. Grava, andare dai. Ok, dai che sto chiudendo qua. Ma che state a combinare queste cartucce, boh. No, devo scendere a fare una... Vaffanculo, è stato toccato adesso. Che belle. Ah, le cartucce per la pistola, stai dicendo. Non stavo ascoltando, vero pure. Le cartucce per la pistola. Rappa. Vabbè dai, ci sentiamo dopo, Lu. Che vado, perché devo fare una commissione alla destra, trovo il pizzo. Devo andare a prendere le cosette. Tutto lì. Bene, mi ascolti, Luca. Ehi, capo, ho passato anch'io, ecco, dai. Sì, fai, fai pure con Codomo e poi quando vuoi montare con l'altra antenna dimmelo K che la piazziamo K. E Gianluca, vediamo un po' se ce la faccio per la prossima settimana, la piattiamo assieme, ok? Dai, ci sentiamo dopo, Lugarie, KK. E già, KK. Franco! Attenzione, Natalino, detto cartuccia. Yeah, but I'm all...